Il sabato del villaggio. Dai, dai, rapidi, rapidi, cambiamoci d'abito perché la terza ora del sabato del villaggio diventa RadioTube. RadioTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Che fretta c'era, maledetta primavera. Che inizio è? Solo perché sono tornato. Ma no, solo perché sono un po' raffreddata, l'ho detto, è stata una puntata un po' faticosa. Meno male che questa settimana ci sei, perché ci la settimana sono, scorsa ci sono. Grazie di aver lavorato tutta per due. Sola. Lo tre so, ore ti tutta sono sola. Mancato. Tra l'altro la prima non ero in studio, quella prima ancora, quindi proprio Hai visto? Vedo aria nuova, ti sei tagliato la barba. Sì, vabbè, succede. Oh, mi sono tagliato la barba e sto cercando una persona, sono disposto anche a pagare, che mi dica stai meglio. A me piaci di più con la barba, sì, però, ecco, però dai. Vedi, non c'è una che persona che stai meglio mia senza. Mia mamma quasi ha detto, ciao, vediamo dov'è il testamento che facciamo una bella come si dice? Diseredato, via. Davvero? Saluto comunque, mamma Bellasio. Sì, non no, guarda, un disastro, non mi sono piaciuto. Da comunque, quanto tempo la portavi la barba? Ecco, allora, io ho fatto crescere la barba in un giorno triste, l'11 settembre del 2001. Quel famoso 11 settembre. Anche perché il mio direttore di allora convocò una riunione di redazione tipo alle 6 della mattina, ma erano fatti un po' straordinari. E quindi io ho detto, ma forse è il caso che stamattina la barba non la riesco a fare, perché... E quindi da lì, tieni conto che appunto... 16 anni di barba, ci siamo tutti a vedere. Però vabbè, adesso va molto, tu sai che io invidio le barbe che ci sono qui, tutte barbe bellissime in regia qua, Radio 24, ma perché parliamo della mia barba? Ma tu ti fai un selfie e lo posti, allora poi possono giudicare gli ascoltatori. Ce l'ho già pronto, però sai un tizio che ha una barba stupenda, leggermente bianca, è il protagonista della storia di cui io voglio parlare. Avesse solo la barba, bella e bellissima. Perché noti gli occhi perché c'è la barba. Perché? No, ma allora, vederlo in TV è bello, ma vederlo dal vivo e non ho mai avuto il piacere. Pazzesco. Perché gli occhi non solo sono belli, non sono di un sono colore viola, solo. Sono viola, sono quel colore ambiguo. Sì, ma poi sì, ma è la storia più bella di tutti i tempi. Autori dell'Isola dei Famosi, io vi ringrazio, siete bravissimi. Se è finto siete bravissimi, se è vero siete bravissimi. L'unico evento televisivo della settimana è stato questo, mostriamolo alla radio. Trovare Paola con me è un miracolo, è un regalo caduto del cielo, è proprio una stella cadente incredibile. Mette le scarpe, amore, c'è pieno di corale, mette qualcosa. Sai che ho voglia di sentire un po' la tanda. Ok, ma attenzione perché c'è un sacco di corale qua. Con lui io in una situazione così mi sento comunque totalmente sicura, protetta e se vuoi anche coccolata. Che bello, che regalo! Tu non hai capito, bionda? Adesso ti faccio un castello io. Ho viaggiato con Paolo il mondo, 14 anni eravamo insieme, abbiamo fatto dei viaggi memorabili, proprio eravamo in tutti i continenti. Bionda, io ti faccio un castello, basta, cioè capito, Raz the Gun. Figo atomico che beh, dice... Beh, non che lei... No, lei è spettacoltare. Cioè, lei è ma oltre ogni immaginazione. Ditemi che è vero che sono tornati. Poi lei... Già iniziavano i primi scherzi della coppia, perché a un certo punto lui faceva tutto, e lei gli ha detto, sì, però a casa non facevi niente. È così. Dai, ascoltiamoci un altro pezzettino. Mostriamo alla radio un altro pezzettino dell'isola. È stato, e lo dico sempre, sarà il grande amore della mia vita, ma un amore... Un amore che è andato oltre, un amore che si è trasformato, un amore vero. E... Dopo di lei non ho avuto un'altra donna, un'altra compagna, però il rispetto è rimasto e l'amore credo è rimasto. È bellissimo. Secondo me è vero perché sono sull'isola. Cioè? Cioè quando un amore finisce, il problema è che poi magari tornano a casa, hanno rinverdito lì sull'isola, tornano a casa. Intanto hanno rinverdito, questa è una notizia. Secondo me hanno rinverdito. Tornano a casa e poi sai la routine e si torna a commettere gli stessi errori e ci si lascia di nuovo. Allora sai cosa penso io? Sono preoccupato. Lasciamoli sull'isola. Lascia, ma sì, ma no, ma per loro, per il loro amore, non posso ridere perché lasciamoli su lì. Cioè, secondo te è vero solo se restano lì? Ma no, è se vero, ritornano. Però è vero perché lì si sono trovati in questa situazione di romanticismo e la cosa. Allora, bionda, io non sto ti faccio seguendo... un po' io che sono mora. È il sogno della mia vita, bionda, ti costruisco un castello. Niente. Ci ha riportato. Ha riportato la nostra generazione, possiamo dirlo, a dove erano? Tra i 90, sì, no? Sì, sì, sì. Ed erano la coppia di questi bellissimi. Che poi facevano le cose che tutti un po' sognavano. Perché a un certo punto loro credo abbiano smesso di fare carriera. Sì, sì, hanno perché fatto hanno preso viaggi, un bagaglio. Sì. E niente, sono messi in giro per il mondo. Che meraviglia. Ora capisci che bellissimo, bellissima valigia, viaggio in giro per il mondo, per forza che poi... Che meraviglia. E mi ha fatto tornare lì sull'isola, stanno bene. Sì, mi ha fatto tornare in mente la canzone quella lì di De Gregori. Due buoni compagni di viaggio non dovrebbero... faranno... Potranno scegliere in barchi diversi, saranno sempre dei marinai. Baba mia, che romanticismo. Sai anche chi ha pianto? Un'altra brutta, diciamo. Chi ha pianto? Una che non proprio ti piace una che proprio. Assolutamente. Cioè, se ce n'è una che se Bellasio la incontrasse direbbe no. Oh, come brutta questa. Ma io questa. Sarei anche un giornalista serio. Vabbè, comunque. Di, no. Di che è quella che proprio la ti... seguo anche su Instagram. Di che è quella per la quale tu sragioni proprio? Lo ammetto. Ecco, Alessia Marcuzzi, che è la conduttrice veramente altro dell'isola, giusto? Sì. Che però è andata da in quella trasmissione dove il format è vieni qui che ti faccio piangere, questo è il sottotitolo, Costanzo. No? Costanzo, le grandi interviste. Ti piace questo format dell'intervista? Le stai seguendo abbastanza, sì? Le sto seguendo perché, diciamo, lì ti fa piangere con la tua storia, quindi tu sei costretta a raccontarla, quindi il trucco di farti piangere magari è un po' costruito, ovviamente ti mettono le immagini, però ha un fine, come dire, narrativo, perché così tu racconti di più e meglio. Però come video della settimana tu non hai scelto no, un video perché, in cui lei piange. Perché secondo me i successori non devono mai... i predecessori non sì. devono mai parlare male dei successori. Sono d'accordo. Ecco, quindi... Però cos'è successo? Che Alessia Marcuzzi in questo frammento dell'intervista di Maurizio Costanzo si è levata un sassolino della scarpa nei confronti di Simona Ventura. Quando Mediaset mi ha detto, che dici avere Simona sull'isola? E io ho detto, è una bomba. Cioè, avere l'ex conduttrice dei famosi per me... Era una cosa che non si è mai sentita nella vita, non credo che tante altre persone avrebbero accettato, invece io ho detto no, è una figata, sono rimasta un po' male con lei e gliel'ho detto anche in faccia quando è tornata, perché lei quando è tornata ha fatto un paio di interviste dove ha detto io da conduttrice non avrei fatto questo, non avrei fatto quello. Allora io, quando lei è tornata, ci siamo salutate e le ho detto guarda, mi dispiace che tu abbia detto quelle cose. Mi è molto dispiaciuto perché a volte succede che penso di essere una persona per bene, penso di essere una persona rispettosa e non ricevo però lo stesso io penso la stessa moneta in cambio. Vabbè dai, scherzi però lei ne ha parlato in maniera molto luce, aspettiamo di sentire cosa risponde Simona Ventura, che è un'altra conduttrice che a me piace molto, quindi insomma capita tra colleghi. Allora facciamo così, c'è una breve pausa, voi seguite tutti su Twitter Daniele Bellasio, chiocciola di Bellasio, perché ci posterà la foto senza barba. Sono disposto a pagare per dei complimenti. Stai attento perché secondo me qualche Il primo che manda un complimento, un caffè glielo pago. Va bene, signor, pensavo qualcosa di più. Allora, chiocciola di Bellasio per seguire Daniele, chiocciola Marta Cagnola. Poi c'è anche l'hashtag RadioTube. Ci ritroviamo tra pochissimo. Abbiamo un argomento molto delicato, molto interessante. Vi consiglio di seguirlo perché sarà veramente, veramente un argomento da approfondire. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci. E vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. YouTube. E rieccoci insieme. Io ve l'ho detto, stiamo per trattare un argomento molto interessante, a tratti complicato, ma secondo me è un argomento che è davvero utile approfondire, perché è un tema che sarà utile a molti. Però partiamo da uno spunto di cronaca, di cronaca politica, Daniele. Sì, dunque, lo spunto di cronaca è stata la querel polemica che si è instaurata questa settimana tra il Partito Democratico e il movimento di Beppe Grillo, una delle tante, ma in questa polemica nasce dal fatto che la difesa di Beppe Grillo in un processo per diffamazione ha spiegato come il blog di Beppe Grillo in realtà non sia gestito da lui, e per di più il post considerato diffamatorio dal PD, che peraltro si riferiva a un'inchiesta giudiziaria poi finita, archiviata, Basilicata, Tempa Rossa, Ministro Guidi, insomma una vicenda di un po' di tempo fa, si diceva la difesa ha appunto sostenuto, ma Beppe Grillo, intanto il post era non firmato, Beppe Grillo non gestisce il blog, e quindi questa era la difesa di Beppe Grillo. Ovviamente il PD, Bonifazi in particolare, il tesoriere del Partito Democratico, ha scritto un post spiegando che questa sembrava una cosa un po' assurda, perché il nome del blog è www.beppegrillo.it. Allora, quindi, io vorrei mostrare alla radio come ha commentato tutto questo durante il telegiornale della Sette Enrico Mentana, con una citazione che io ho trovato irresistibile. Al di là della querela del PD, al di là delle vicende delle beghe tra i partiti, è bene sapere, visto che si parla all'opinione pubblica, se Grillo è o non è il responsabile del suo blog, se Grillo è o non è il responsabile di quello che leggiamo su Twitter col suo nome e cognome, perché se non è così è ovvio che giornalisticamente prenderemo in modo diverso quello che leggiamo e quasi sempre poi pubblichiamo, rendiamo noto nei nostri notiziari a firma appunto di Beppe Grillo. Allora, come diceva quello in quel programma, è lui o non è lui? È lui o non è lui? Ha imitato Ezio Greggio. Però Mentana giustamente la mette più dal punto di vista editorial barra politico. Certo. Lo spunto potrebbe essere invece interessante per capire chi è responsabile e di che cosa in rete, in generale, uscendo dal caso di Beppe Grillo. Diciamo che è uno spunto interessante per tutti. Sì, anche nella vita normale. Anche peraltro. Nella vita normale. Voglio cercare di capire... Però in rete è più complicato. Sì, però cerchiamo di capire un po' chi risponde di cosa in rete. E lo facciamo? Lo facciamo con un esperto, perché è sì, giusto. Io ho partecipato a dei corsi dell'Ordine dei Giornalisti. Anch'io. Di aggiornamento ma non con gli lui. Stessi però se no copiavo non lo da te. So non lo so, però guarda, con lui tu, appena so che c'è lui io mi iscrivo. Sì, anche allora, per altre ragioni. Leggo la biografia su Twitter: vive e fa l'avvocato a Milano, si occupa di diritto penale d'impresa e delle regole dei giornalisti, a volte anche di altro. Il suo account di Twitter è @CarloMelzi. Buonasera all'avvocato Carlo Melzi Deril. Buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie per la presentazione che credo non meritata, ma insomma... No, ma è vero, comunque. Abbiamo scoperto che ci scriviamo sempre quando ci sono, perché c'è sempre da imparare. È una materia difficilissima e io immagino per voi che cambi... Continuamente, peraltro. In ogni momento, perché la rete cambia e quindi anche le regole di buon comportamento cambiano. Daniele... Insomma, chi è responsabile di che cosa in rete, avvocato... Melzi Deril. In realtà in rete, come nella vita, risponde chi fa le cose. Prendiamo l'esempio di un blog. Chi scrive il post risponde di quello che scrive. Si potrebbe porre un problema, e cioè chi gestisce il blog risponde o non risponde insieme a chi ha scritto, o magari da solo se chi ha scritto è un anonimo. Ma allora, fino a un po' di tempo fa c'erano due indirizzi abbastanza ben definiti, e cioè se il blog era non monitorato, cioè i lettori potevano entrare direttamente e scrivere per i fatti loro, il gestore del blog tendenzialmente non rispondeva. Perché? Perché lui non aveva fatto niente, aveva fatto tutto il lettore che era entrato, aveva scritto, aveva pubblicato. Se il blog invece è monitorato, quindi il lettore manda il suo post, il gestore del blog lo valuta e poi decide se pubblicarlo o meno, in quel caso anche il gestore del blog rispondeva. Perché? perché anche lì aveva fatto una cosa. Ma se un post è totalmente anonimo, ma il sito ha un nome. Brava, volevo dire la stessa cosa. Io poi in questo sono molto basica perché non ne capisco nulla. Il post è anonimo, ma il sito porta il nome di una persona. Cioè c'è qualche forma di presunzione di responsabilità legata all'identificazione dell'autore del post con il nome del blog? E qui bisogna cercare, nel senso che allora una presunzione è difficile che ci sia in un ambito come quello della responsabilità, in cui, ripeto, risponde chi fa le cose. Per cui io posso anche pensare che in un blog che si chiama Pino Pini, il signor Pino Pini sia il gestore di tutti, sia l'autore di tutti i contenuti, e magari gli faccio causa. Lui però si difende e dice: guarda, tu pensavi che fossi io, in realtà il mio blog che si chiama Pino Pini è gestito da un altro che si chiama Gino Gigli. E in particolare quel contenuto è stato scritto da un terzo che si chiama Dino Dini. Complicatissimo. Complicatissimo, perché essendo la rete fatta anche, e purtroppo aggiungo io, di anonimato, è complicato. E sui social network, cioè cambia su qualcosa, Twitter, giusto? Io ho un account che si chiama Gino Gini e magari è pure verificato con la cosiddetta spunta blu di Twitter che dice è Gino Gini, secondo Twitter. È più attribuibile a una persona? E ancora una volta si tratta di un problema di prova, nel senso che al mondo io mi presento come Gino Gini. Tuttavia, se qualcuno viene a chiedermi conto di un particolare contenuto, io potrò sempre difendermi dicendo: guardate, al mondo mi presento così, ma in quel caso particolare quel contenuto è stato scritto da un altro. Allora a quel punto risponderà quest'altro. Il problema si complica un pochino rispetto, per esempio, ai blog, perché ci si domanda, nel caso di contenuti prodotti da terzi rispetto al gestore del blog, che siano evidentemente illeciti, il gestore del blog ha un obbligo di intervenire? Per esempio i commenti? Per esempio i commenti? Per esempio i commenti, certo. Fino a un po' di tempo fa si diceva, a meno che non sia clamorosamente illecita, il blogger non ha l'obbligo di intervenire. Perché? Perché esattamente come, non essendo il direttore responsabile di un giornale cartaceo, non ha un obbligo di verifica preventiva e non ha nemmeno un obbligo di intervenire. Oggi invece una sentenza della Cassazione abbastanza recente e qualche sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo incomincia a farsi strada una interpretazione delle disposizioni secondo la quali il gestore del blog, nel caso in cui sia evidente l'illiceità o qualcuno reclami l'illiceità del contenuto, è obbligato a rimuoverlo, o comunque se non lo rimuove ed è valutato poi da un giudice illecito, ne risponde. Ecco, per capire se abbiamo capito, provo a fare una piccola sintesi grezza e lei mi dice se ci ho preso. Allora, non dobbiamo farci ingannare da come si chiama l'ambiente dove qualcosa è stato scritto, non dobbiamo farci ingannare da chi è proprietario della cosa su cui qualcosa è stato scritto o da chi lo gestisce. Dobbiamo andare a cercare chi proprio ha fatto quella cosa lì, cioè proprio ha scritto quella cosa lì. È giusto? È correttissimo. Il problema è che spesso i privati questi poteri non ce li hanno, nel senso che se io mi sento diffamato dal blog che si chiama Gino Gini, è naturale che mi rivolga a Gino Gini. Dopodiché Gino Gini si difenderà dicendo: ma non sono io. E lì capirò se è lui o non è lui, per riprendere la metafora di città. Certo, tutti questi discorsi molto complicati pongono al centro un grosso problema, che è quello legato all'anonimato su internet, che è anche dal punto di vista dei legislatori è un problema enorme, mi pare di capire. Ci sono tante persone, per esempio studiosi di questa materia, per esempio Carlo Blengino, che è un noto avvocato torinese che si occupa di queste cose, che ritiene che l'anonimato in rete vada tutelato e vada anzi, non si debba pensare a nessuna disposizione che lo limita. Per quanto mi riguarda, io credo viceversa che in un mondo come il nostro, in un paese come il nostro, in cui tutto sommato la libertà di manifestazione del pensiero è, direi, ben tutelata, io preferisco che tutte le tutele in materia di libertà di manifestazione del pensiero si applichino se uno mostra la sua faccia. E per esempio non si possano sequestrare le pagine web, come non si può sequestrare la stampa, ma se uno dichiara chi è. altrimenti se uno non dichiara chi è, io non credo che vada vietato l'anonimo di per sé, credo soltanto che vada più garantito chi mostra la sua faccia. E quindi, per esempio, l'anonimo lo posso sequestrare, chi mostra la faccia non lo posso sequestrare, valuterò dopo se è lecito o illecito, ma preventivamente, prima di fargli un processo, non lo oscuro. Non so se sono stato chiarissimo. Chiarissimo, avvocato Melzi-Derile, è una materia complicatissima. Mi sa che ci risentiremo. Sì, la possiamo richiamare, perché così qualche volta noi cerchiamo di farci un'idea un po' più chiara di quello che si può fare e che non si può fare in rete, perché veramente secondo me ormai secondo me ormai è veramente materia di tutti i giorni, complicatissima, ma di tutti i giorni. Grazie. Buona serata. Grazie, buona serata. Ci sarà una piccola pausa ogni tanto in questa trasmissione. Una piccola pausa, anche presto voglio meditare su quello che ci ha detto l'avvocato Carlo Melzi-Derile. Ci ritroviamo tra pochissimo e sai cosa facciamo, Daniele? Giochiamo. Eh sì, tra poco. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Radio Tube. E rieccoci insieme con questa mia fantastica voce primaverile. Anche la mia soffre un po'. È un po' di allergie. Senti, maledetta primavera. Ho notato due cose, perché di solito ti prendo in giro che ogni volta che vengo per fare la trasmissione tu hai un paio di occhiali diversi. Perché e infatti, mi piacciono. Anche stavolta tu dici che ce li avevi già. No, questi ce li ho da un mesetto. Ho capito, però magari sabato scorso, beh io non c'ero, però magari sabato scorso ne avevi. E ma ho notato che cambia anche molto spesso la cover dell'iPad. No, allora, questa cover dell'iPad l'ho comprata in emergenza a Sanremo perché mi si era rotta quella precedente. Tutti mi prendono in giro perché non è Occidentali Scarma, sì, sembra. Sì, poi infatti alla fine sembra Occidentali Scarma. Cioè è una quei simboli lì. Sì. E solo che non è bellissima, ma siccome era l'unica che ma ho trovato, piace, l'ho comprata. Come dire, e l'unica che hai trovato. Sì, mi ci sono affezionata. Peso poco, però, vabbè. Mi ci sono affezionata. Senti, quando... tu giocavi quando eri piccola? Sì. Ah, sei ancora adesso sei giovane, quando ero piccola allora sì, perché io sono molto orgogliosa di far parte di quella generazione che ha scoperto da Pac-Man al Commodore 64 all'Atari. Sì, ma tu eri team Atari o team Intellivision? No, allora io ho avuto a partire dal Commodore 64, ma mio cugino aveva l'Atari. Ah, e quindi tu sei arrivata già, come dire, con la tecnologia, con l'evoluzione incrementale, sì, superiore. In realtà appunto io avevo il Commodore 64, mio cugino aveva l'Atari e quindi giocavamo un po' a casa mia, un po' a casa sua con tutte e due. Io invece avevo l'Atari, poi ho avuto il Commodore 64. E quello... qual era il tuo gioco preferito? Ma io giocavo a quel gioco che noi allora chiamavamo tennis, ma che se oggi ma uno il Pong, quello con la pallina. Esatto. Però era, noi lo chiamavamo tennis. Ma se certo. Uno adesso vede i videogiochi di ora, quella roba lì ti sembra. Ma c'è stata un'evoluzione molto maggiore che non, che ne so, nel modo di sentire la musica o certo. Nei videogiochi proprio è invece impressionante. I miei preferiti erano un po' più avanti, ma perché appunto, a parte quelli lì molto elementari, mi piaceva tantissimo quello di Braccio di Ferro, cercatevelo, quello era molto avanti. Beh, insomma, non tanto. E poi un gioco, cercatevelo perché ci sono ancora degli emulatori in rete, che si chiamava Frantic Freddy e aveva delle musiche bellissime. Ah, era per la musica. Ma sì, secondo te c'è già la versione vintage, come si dice? Vintage, non lo so. Del farsi vedere mentre si gioca ai videogiochi, cioè adesso giocano a quelli moderni. Questa quindi, secondo me è una però sarebbe carino che vedono me che gioco con l'Atari. Allora, a Pong adesso Marta Cagnola. Adesso ci informiamo se è possibile farti diventare un gamer. Eh? Dei cioè, giochi già dovevo diventare vlogger, adesso allora, anche gamer. Allora, sai cos'è il gamer? No. Allora, io ho due nipoti che hanno 12 e 16 anni e quindi immaginati il delirio, stanno le ore a guardare, no, le ore no perché fanno anche i compiti, però guardano questi ragazzi su YouTube che si riprendono mentre giocano. Ti faccio subito sentire un gamer, lui si chiama Stepney ed è famosissimo tra i ragazzi. Se tu chiedi chi è Stepney a un ragazzino, sappi che è sicuramente un suo fan. Sentiamolo, sì. Bene ragazzi, qui è Stepney e bentornati in questo nuovissimo video della serie di Clash Royale. Lo chiameremo così ancora per un po', anche se è cambiato tutto. Cosa caspita è sta roba? Sfidante, maestro, campione grandioso, campione definitivo, 6400 trofei, ma sei impazzito? Ora voi mi spiegate che cos'è questo aggeggio. Scegli ciò che vuoi da 8 paia di carte, ricompensa stagionale. 25 euro tra 7 ore, devo sbrigarmi. C'è per forza una legge. Leggendaria, vabbè, lo compro, dai. Money, cin cin. Allora, questo ragazzo sta giocando e intanto si riprende e ha centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ma fa anche una sorta di recensione. Io non ho capito quasi niente di quello che diceva. No, però perché no, se non giochi a gioco non capisci. Cioè, lui cioè commenta il gioco, allora, o solo commenta la sua partita? Cerchiamo di capire un po' questo fenomeno. Chiamiamo un amico di RadioTube che è veramente uno dei più esperti sul pianeta in fatto di videogiochi. Infatti gli ascoltatori di RadioTube e del Sabato del Villaggio sanno già che ci stiamo per collegare con lui. Emilio Cozzi, ciao Emilio. Ciao ragazzi, ciao. Buona giornata, come state? Come state? Un po' primaverili. Intanto sento, dove sei Emilio? Sono, giusto per rimanere in tema, a Let's Play, Festival del Videogioco, al Guido Reni District, dove da mercoledì scorso a domenica, cioè a domani, appunto andrà in scena questo grande festival che ospita speech, talk, conversazioni, incontri di tutti i tipi dedicati al videogioco, anche al tema di cui state parlando proprio adesso. Cioè, scusa, intanto smarchiamo il primo bipolarismo. Team in television o team Atari ieri? Io devo essere sincero, sono della generazione di Atari. In television l'ho visto di passaggio, Atari invece è proprio a Pong, l'ho consumato. Ecco, secondo me dovremmo fare una sfida tra gamer, Cozzi, Bellasio che giocano a Pong. Deve non essere male. Avvincentissimo. E lo trasmetteremo su Twitch o su YouTube, che è una delle attività che adesso vanno per la maggiore a livello globale. Come dicevate prima, se fino a qualche anno fa guardare qualcuno giocare ai videogiochi era una cosa di una noia fatale, adesso è uno dei passatempi più diffusi e soprattutto più in espansione del mondo. Quindi prepariamoci a una sessione di Twitch in cui ci sfideremo sull'Atari a Pong, propongo, perché no, anche a Popeye dopo, un emulatore, mica male. Bellissimo. Senti, non ho capito una sessione di cosa, cosa dobbiamo trasmetterlo? Volevo chiedere la stessa cosa, Twitch sono queste piattaforme principalmente utilizzate proprio per condividere le proprie partite online, spesso commentate in maniera ironica, in maniera spiritosa, o anche mica tanto, perché attraverso Twitch, attraverso piattaforme dedicate al gioco, per esempio anche solo di YouTube, in realtà si praticano gli e-sports, per esempio, cioè i videogiochi dal punto di vista professionistico e competitivo, che diventano un'arena pubblica che oggi conta 148 milioni di utenti, con una previsione del 400% in aumento entro 2 anni. Fate voi un po' come, cioè, dire, diventano uno sport vero, con fan, con rete. Decisamente. Con campionati veri? Assolutamente sì, campionati mondiali con montepremi di qualche milione di dollari. Pensate che l'anno scorso la finale mondiale di League of Legends, che è il gioco più giocato del pianeta, fece un audience superiore alle finali di baseball e alle finali di pallacanestro NBA. Cioè, stiamo parlando di cifre che ormai davvero competono con gli sport tradizionali. Non è un caso che proprio la NBA nel 2018 lancerà il primo campionato professionistico videoludico che la clonerà, cioè una serie di videogiocatori professionisti si daranno, come dire, battaglia su parquet digitali in un campionato parallelo e pagati dalle squadre NBA. Questa, cioè, LeBron James giocherà a NBA con qualcun altro in un campionato parallelo su un videogioco? No, Daniele Bellasio giocherà con Daniele Bellasio, con il suo avatar digitale, con le sue caratteristiche tecnico-atletiche, però per i Cleveland Cavaliers, come dire, cioè, sì, a Daniele si sono illuminati gli occhi. Ma se lo dico a Rocco, diciamo che la mia... Ma è una cosa fantastica. Ma scusa, che professioni stanno nascendo a proposito di questo mondo? appunto di sicuro i giocatori professionisti, i pro gamer, che lo ricordo, sono delle superstar. Il fenomeno è che in realtà è vecchio di 40 anni, che peraltro deriva proprio da Atari. Il primo campionato ufficiale fu proprio di Space Invaders nell'82, è in realtà diventato sport nazionale in Corea, laddove il videogioco è stato utilizzato per, come dire, diffondere l'alfabetizzazione digitale. Oggi il videogioco in Corea si pratica in stadi che fanno dai 40 agli 80 mila spettatori, che guardano dal vivo ragazzini miliardari giocare su una tastiera, invece che con una palla o con una racchetta da tennis hanno una tastiera e un mouse, e vi assicuro fanno dei numeri che davvero LeBron James e Michael Jordan farebbero fatica ad imitare nelle loro discipline. Io ho chiamato mio nipote e gli ho detto: senti, suggeriscimi dei nomi. A parte Favij, mi ha suggerito Stepney, che abbiamo appena sentito, ma sentiamo un pezzettino anche di Ciccio Gamer. Ragazzi, dopo questo aggiornamento, ovviamente un po' a tutti è tornata la voglia di giocare a Clash Royale, in particolar modo a me. Come potete vedere, scalando le vette possiamo arrivare fino a diventare campione definitivo. Quindi, signori, oggi forse sarà una buona cosa per tutti quanti voi, dato che me lo stavate chiedendo. Inizierà la road a campione definitivo. Ora, non so come la chiamerò, comunque diciamo che è una road campione definitivo. Spero che questa cosa vi piaccia, perché significa che torniamo ad essere competitivi. Signori, infatti il deck è cambiato. Non credo che per il momento vi chiederò sondaggi, perché appunto il sondaggio si può fare quando vogliamo un po' cazzeggiare, ma se abbiamo in mente di arrivare a un traguardo, dobbiamo giocare seri. Dobbiamo giocare seri. Allora, io non capisco ovviamente quasi nulla. Questo video ha quasi 300.000 visualizzazioni. Ciccio Gamer 89 ha 1.800.000 iscritti. Cioè è un mondo veramente parallelo, ma con numeri enormi, Emilio. Cioè i mezzi di comunicazione mainstream non ne parlano mai, è una cosa ignota ai più. Eppure, cioè, chi ha figli, chi frequenta ragazzi, così, cioè, io ho dei nipoti, eppure sa che è un mondo importantissimo. Decisamente, tanto che li nominavate prima, alcuni dei, come dire, degli youtuber più noti al mondo, non solo in Italia, ma banalmente anche Favij, che menzionate prima, sono nati proprio videogiocando, come dire, pubblicamente. Il che mi porta a finire la risposta per Daniele di prima. C'è un'altra professione, per esempio quella dei caster, che sono commentatori professionisti di videogiocatori professionisti. Quindi le professioni stanno davvero in qualche modo ricevendo dei paradigmi nuovi. Nulla vieta che adesso un ragazzo possa specializzarsi, qualora non riuscisse a diventare un professionista, un videogiocatore professionista, nel commentare partite altrui, anche perché, come giustamente stavate dicendo prima, spesso e volentieri vedere una partita di League of Legends o di Counter-Strike richiede un gergo e una capacità di comprendere le dinamiche. Sì, noi non capiamo nulla se lo guardiamo così. Bravissimi, francamente da iniziati. Ecco, un buon caster può essere assolutamente l'anello mancante. Tenete presente, per esempio, che 2 settimane fa la Roma, cioè la Magica, per chi ci crede, così come la Sampdoria, hanno ingaggiato i primi videogiocatori di FIFA professionisti, perché ormai anche quello è cosa pratica. Le grandi squadre, i grandi club sportivi hanno una sezione dedicata agli sport elettronici, che sta in qualche modo diventando sempre più importante. Ce l'ha il Galatasaray, il Manchester City, il Paris Saint-Germain, e appunto in Italia da 2 settimane anche Sampdoria e Roma. Allora, so che Daniele ti vuole fare una domanda, ti chiedo solo un attimo di pazienza perché c'è il traffico, poi ci troviamo insieme per continuare a parlare di videogiochi, anche di un premio che c'è stato in questi giorni, tra pochissimo. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta YouTube. Ciao a tutti, ciao e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Eta, prima di iniziare con l'episodio, anche perché non so ancora di preciso cos'è che andrò a fare, sono venuto solamente qui a controllare i villager come erano messi, per vedere se era cresciuto qualche altro villagerino piccolino, perché il mio obiettivo è sempre quello di ottenere un villager che mi dia lo scambio con il libro del mending, che è una delle cose migliori del mondo. Daniele, hai capito qualcosa? Sta nascendo una lingua impronunciabile. Allora, questo ragazzo si chiama Surreal Power. Surreal. Ha oltre 1.700.000 iscritti al suo canale di YouTube. Gioca Minecraft. Questo video ha quasi 380.000 visualizzazioni. Allora, stiamo parlando di gamer, cioè di questi ragazzi che si riprendono su YouTube, abbiamo imparato non solo, mentre giocano, e i ragazzini di oggi vanno pazzi per questi video. Questi sono veramente star. Abbiamo sempre in collegamento il nostro Emilio Cozzi, che ci sta aiutando a capire, cioè ci sta facendo questo entrare mondo, in un mondo veramente tutto nuovo. Te li ricordi invece quei due ragazzi che si chiamano tutti e due Matteo Renzi e Matteo Orfini, che giocavano col joystick il giorno delle elezioni? Sì, quella foto è diventata una specie di meme. Certo. Ed è diventata una specie di meme anche perché il sottotesto era critico. Ma come? Tu sei il leader principale del partito? Allora, in Italia i videogiochi non godono di buona fama. I genitori e i bimbi dicono: guarda che diventi, impazzisci. Io però vorrei spezzare una lancia. Sì, no, non ho detto diventi, ho detto impazzì. Vorrei spezzare una lancia, anzi un joystick a favore, perché a me è successa una cosa molto carina, l'ho già detto una volta. Quando mio figlio Rocco era in prima, leggeva magari non troppo velocemente, però giocava ovviamente molto bene a uno di quei giochi portatili, non faccio il nome perché così non faccio pubblicità. A un certo punto ha iniziato a leggere più veloce. Io gli ho chiesto: ma secondo lui perché? E lui mi rispose: perché dovevo rispondere alle domande di questo gioco velocemente e quindi cliccava. Insomma, volevo chiedere a Emilio, che ci ascolta al telefono, in realtà i videogiochi hanno degli aspetti che non sono solo ludici. Decisamente, tanto che, continuo l'esempio che tu hai appena fatto, un neurolinguista piuttosto prestigioso, James Polghi, ha scritto un libro, in Italia è tradotto con Come un videogioco, perché ha notato molto semplicemente che per esempio bambini o ragazzi molto giovani riescono a gestire giochi dalle regole estremamente complesse, giochi strategici, giochi gestionali, quando per esempio fanno fatica a imparare banalmente le regole di grammatica. Quindi c'è qualcosa nei videogiochi di estremamente efficace dal punto di vista anche didattico, e lui ha tentato di capire da neurolinguista quali sono le caratteristiche e gli ingredienti che del videogioco rendono estremamente facile l'apprendimento e anche molto più incisivo dal punto di vista mnemonico. Tanto che, per tornare invece al video, Minecraft oggi è utilizzato come piattaforma a scuola, c'è una versione educativa, per insegnare fisica, inglese, matematica, perché appunto è molto più semplice, più divertente imparare giocando che non utilizzando metodi tradizionali. Chiudo dicendovi, tornando anche sull'Atari, chiudendo il cerchio appunto, Nolan Bushnell, cioè colui il quale negli anni 70 si inventò Atari, oggi lavora a due progetti. Uno si chiama Anti-Aging Game, che in già pratica mi piace. Utilizza i videogiochi per rallentare l'invecchiamento cerebrale, e l'altro è un progetto attraverso il quale si insegnano le lingue straniere utilizzando i videogiochi, e ha un'efficacia 4 volte superiore rispetto ai metodi di insegnamento tradizionali. Cioè con un'ora di quel gioco si impara quello che si imparerebbe in 4 ore a una lezione tradizionale. Questo credo che risponda perfettamente e dia ragione a Daniele. Allora, in questi giorni è stato anche incoronato il videogioco dell'anno al Drago d'Oro 2017, che era sempre così una delle manifestazioni che sono state organizzate nell'ambito di Let's Play, che è questo festival del videogioco con il quale ci stiamo collegando, perché il nostro Emilio Cozzi ci sta parlando da lì. Allora, ma noi vogliamo il presidente. Vogliamo il presidente della giuria di questo premio Drago d'Oro. Voglio anche sapere qual è stato allora a questo punto qual è il grande videogioco dell'anno. E ci winner is? E ci colleghiamo. La La Land. No, quello era sbagliato. No, è sbagliato. It's not a joke. Ci colleghiamo con un collega del Sole 24 Ore di Nova, il massimo esperto di videogiochi interno al Sole, ma non solo i videogiochi, di tecnologia. Vale. Luca Tremolada, ciao Luca. Ciao. Buongiorno a tutti, buongiorno Daniele, buongiorno Marta. Ciao. Allora, il Drago d'Oro 2017, a chi è andato? Qual è il videogioco dell'anno? Presidente, chiamalo. Presidente, qual è il videogioco dell'anno? Allora, è il presidente. Sì. E il videogioco dell'anno è Final Fantasy XV. Parliamo di un gioco che ha una tradizione trentennale, cioè da 30 anni esiste questo tipo di videogioco. Ci hanno messo 10 anni per farlo. È una follia coloratissima giapponese, un gioco di ruolo giapponese, dove tra l'altro si parla anche un po' d'Italia, perché c'è anche Venezia. E è un romanzo di formazione, sono 4 ragazzini ricchi vestiti da matti che girano in un mondo completamente fatato. Una meraviglia oggettiva. Tu ovviamente l'hai provato. Io l'ho finito. L'hai finito? Uno... Cosa vuol dire finito? I videogiochi sono una cosa che finiscono? Sono come dei film? Sono dei film lunghissimi. Tu conta che adesso finirli ci vuole veramente tanto. Io sai che ho un figlio e tutto quanto, per cui faccio una mezz'ora dopo le 9. Io lo metto a letto tipo alle 9. Dalle 9 alle 9 e mezza faccio questa mezz'ora di videogioco, perché mi rilassa i nervi. Per cui puoi immaginare quanto tempo ci ho messo, fai il calcolo. Però sì, sono lunghissime, è una forma di intrattenimento molto lunga. E Daniele, visto che siamo giornale finanziario, costano anche un sacco di soldi, perché un videogioco costa 70 euro, per cui è anche giusto che duri tanto. Conta che in Final Fantasy tu finisci e ti danno un attestato di presenza, per cui ti dicono quante ore hai giocato, quanti risultati hai ottenuto, perché poi tra l'altro per platinare, ricordatevi questa parola, cioè per fare tutte le cose che ti richiede il videogioco ci vuole il doppio del tempo, per cui io sono certo anche un giocatore distratto, diciamo. Ma lo storytelling dipende più da te che giochi o più dal gioco in sé? Dal gioco in sé, nel senso che loro ragionano, l'esperienza è mia, però loro guidano la mia esperienza, decidono i miei gradi di libertà, cioè decidono se io posso volare, se posso saltare o se posso solo camminare. Per cui in un certo senso un game designer mi racconta che scrivere un videogioco significa permettere al giocatore di vedere in qualsiasi angolo, cosa che invece al cinema non accade, e al tempo stesso fargli vivere delle esperienze in maniera molto diversa, molto più attiva. Infatti è un intrattenimento attivo rispetto al cinema. Ultima domanda, Luca, ma l'attestato di aver completato Final Fantasy XV poi si può usare anche sul posto di lavoro per giustificazione in caso di... Oppure o no? Crediti all'ordine dei giornalisti ne dà... Diciamo che quando lo vede la moglie si arrabbia, perché mi ritiene un cretino, però va bene, cioè nel senso, vabbè, però almeno la garanzia che sei in casa, esatto, ti tiene sotto controllo, esatto. Anzi, lo dico a tutti quelli che hanno l'amante, procuratevi, esatto, poi tu sarai un mito di tuo figlio tra qualche anno. Io per esempio, che non sono un grande giocatore di videogiochi, già sto perdendo, capito, nella considerazione di mio figlio che ha 8-9 anni. Figurati, tu sarai un mito assoluto, cioè povera sarai mamma, vero, un maestro di vita. Povera mamma. Povera mamma, sono d'accordo con Marta, povera mamma, infatti. Grazie Luca, ciao, per essere stato con noi, grazie Luca Tremolada, ciao Luca. Ciao, ciao. E ciao Emilio. Emilio, ho un'ultima domanda anche per Emilio Cozzi. Vai. Emilio, ma ditemi, cosa giocano invece questi gamer? Perché noi abbiamo sentito Minecraft, Clash Royale. Tornano spesso. Sono questi i giochi a cui giocano i gamer, quelli che noi guardiamo su YouTube? Sì, sì, diciamo che sono principalmente questi, o comunque giochi quasi casual, giochi molto rapidi, molto simpatici, che appunto abbiano un impatto visivo immediato. Non è da escludere infatti invece che giochino in realtà ai giochi del momento, perché è molto bello vedere appunto il tuo idolo digitale, il tuo idolo visivo, confrontarsi con il gioco che magari tu vorresti acquistare, che è appena uscito, che appunto comporta anche, come dire, un investimento di non pochi euro, per cui vederlo provato da una persona di cui ti fidi in qualche modo è anche una garanzia, insomma. Certo, in alcuni giochi poi c'è la voce del telecronista, per esempio nel calcio, non faccio c'è Pardo. Un giorno lo sentivo, sembrava Pardo di sentire Radio 24, bellissimo, è vero. Grazie bellissimo. Emilio, ciao, per essere stato buona con noi. Giornata. Chiocciola, grazie Marta, addio, grazie. E grazie per buon divertimento a Let's Play. Grazie Emilio, alla prossima. Allora, ciao, intanto diciamo ciao anche et Marta Cagnola e Teddy Bellasio. Non Bellasio l'abbiamo ancora detto, cancelletto Radio Tube, cancelletto ISDV, però chiudiamo in lacrime. Dai, chiudiamosi con un altro bel piantone. È stato aperto un fascicolo sul tour secondari ticketing, ci puoi rispondere per favore? Sì. Io ti giuro che questa è la persona che organizza il concerto Noi e in questo momento non mi sta rispondendo. Sì, però scusa, abbi pazienza, tu ci stai dicendo che sei venuto a conoscenza di questa cosa, guarda caso, nel momento in cui noi arriviamo da te. Te lo giuro, mi ha chiamato adesso il mio avvocato. Quello che vorrei chiederti è questo: io ti assicuro che noi lo siamo venuti a sapere in questo cazzo di momento adesso. Povero, ma povero Fede, è uno scherzo terribile. Come, qualcuno ha detto niente, che ogni mira è tutto, ma no, no, poverino, ma piangeva vede, sul alla serio. Fine piangeva. Tra l'altro, secondo me, lui non vuole apparire per un rap. Per apparire, un rap, per apparire piagnucoloso, no, ma non era piagnucoloso. Però apparire così debole, in un momento di debolezza, sì, non è, quindi era sicuramente Fedezza sincero. Fedezza alle Iene, un altro video. Ha guadagnato un sacco in simpatia. Sì, ha anche perché poi era, cioè, era addolorato perché insomma poi lui ha fatto anche un po' di campagna su questo tema, era accusato di fare una cosa disonesta. Sì, sì, assolutamente. Povero, vabbè, dai, salutiamo allora con Fedez che piange. Sì, ti canterei anche le so quasi tutte a memoria, vabbè, però allora cantare facciamo così adesso, chiudiamo Radio Tube, diamo l'appuntamento agli ascoltatori e poi mi canti qualcosa di Fedez in privato però. Okay. Grazie, ciao. Ciao a tutti, grazie a Gianni in regia, ci troviamo il prossimo sabato.